Carissimi amici, bentornati. Nuova puntata del ciclo di catechesi del libro di Teneramata. Questa è la numero 24. Ho ricontrollato prima dell'inizio perché quando le puntate cominciano a diventare tante c'è il pericolo di fare un po' di confusione. Bene, ci siamo lasciati la volta scorsa con credo tante cose davvero belle che abbiamo scoperto della vita eterna, del paradiso che ci attende, della gloria accidentale, tra cui una delle cose più particolari, forse più interessanti e più suggestive, anche più sorprendenti, entro certi limiti, solo quando non si conosce bene la divina volontà, è che Dio gioca con i beati, gioca anche lui, si diverte anche lui. E abbiamo visto che c'è uno spettacolo più bello dei film più belli che possiamo immaginare. Tutto quanto registrato non come i nostri nastri di registrazione, ma tutto quanto perfettissimo, meglio delle migliori realizzazioni, che adesso mi sembra che siano state un pochino abbandonate, dei Blu-ray 3D. Adesso pare che fanno tutto in 4K. Ma questo è niente in confronto a quello che si vedrà dall'altra parte. Peraltro, molti dei film saranno in realtà a quanto pare dei docufilm, quindi nel senso la possibilità di andare a ripercorrere e a vedere qualunque evento storico che possa in qualche modo tirare la nostra attenzione, il nostro interesse. La nostra in quella sede certamente legittima e assecondabile curiosità. Ecco, la curiosità qui sul pianeta Terra è un po' pericolosetta, ma in paradiso, tra le tante cose che cambiano, è che Dio i desideri evidentemente buoni, legittimi dei beati, come abbiamo già credo ormai compreso, e li soddisfa tutti, quindi non li lascia incompiuti. Allora, fatta questa breve premessa di ricollocarci e risintonizzarci, direi di procedere subito con una certa premura alla prosecuzione della lettura, perché ci attendono altre sorprese questa sera, non indifferenti. Quindi, riprendo da dove ci siamo lasciati. Con Riccardo che fa questa esclamazione di ammirazione. Quante meraviglie nel paradiso, dice a Teneramata, con una tristezza prossima all'invidia. Lei risponde: è chiaro che la nostra gioia immensa, assistendo a questi spettacoli viventi, non ci permette di essere sadici né masochisti. Godere vedendo una carneficina, per esempio, o chiedere la morte per chi non è a noi simpatico. Noi siamo sempre gioiosi e felici. Sì, immagino che non vi potete abbattere, anche se contemplate un tristissimo spettacolo da far piangere la stessa statua di Nerone. Ma comunque nel cielo. Adesso fa un'altra obiezione di qualcuna delle cose belle che abbiamo sulla terra, no? Comunque nel cielo non ci sono dei bar come qui. Ah, manca il bar. E quindi se manca il bar, manca un sacco di cose buone, secondo Riccardo. Risposta. In verità non ci occorrono. Cambiare l'acqua in squisito vino è la cosa più facile nel cielo. E lo beviamo con piacere. Ma non per creare un ambiente cordiale, perché già lo abbiamo, né per averne la brevissima euforia, giacché la nostra allegria è sempre immensa. Lo beviamo per il sapore squisito e il grandioso simbolismo. Mi riferisco naturalmente ai vini e liquori celesti. Oh, mi fermo un attimo. Quindi, udite, udite, In paradiso, specialmente per chi è amante del vino e dei buoni liquori, ci sono i vini e i liquori celesti, che non si bevono per creare euforia, no? Cioè, sapete che l'alcol generalmente serve a creare quel clima un po'... non serve. E nemmeno per creare quell'ambiente cordiale, no? Il brindisi, non serve. Non serve niente di tutto questo. Ma quello che è una cosa buona, e questa nell'ambito... rimanendo nel lecito ovviamente, perché qui le bevande alcoliche sono pericolosissime, perché bisogna che uno conosca bene le proprie misure per non eccedere, ma ci sono dei vini buonissimi, ci sono dei liquori buonissimi. Certo, qui sulla terra, a seconda, ripeto, delle capacità di tenuta, però... occorre contenersi sotto tantissime, per tantissime motivazioni per ovvie ragioni, no? Primo, perché non si può diventare né brilli né ubriachi. Secondo, perché c'è la possibilità che si crei assuefazione, no? E quindi poi tendenze ad aumentare, no? Un po' anche per lo spirito di mortificazione e di penitenza che caratterizza la nostra vita, no? Però dopo queste cose non ci stanno. Tutto questo dopo non c'è. Allora, attenzione, un'altra obiezione di Riccardo con un'altra cosa bella di questo mondo, che è bella, ecco, anche se io non sono mai stato molto molto bravo in questa cosa qui, però è sicuramente una cosa bella. La mia invidia trova un'altra obiezione. Ah, nell'aldilà non si balla come nei saloni di qua. E adesso scopriamo un'altra cosa. Ma sì che si balla. Ma molto meglio. Prima di andare avanti, io vorrei che chi ascolta queste cose capisse qualcosa di molto importante e di molto profondo. Vedete, cioè, qui si tratta, nella gloria accidentale, alcune cose belle che in questa vita però si vivono in maniera o limitata, perché non si può più di tanto, o imperfetta, in cielo ci stanno in maniera perfetta e senza nessun tipo di limite. Qualcuno potrebbe storcere la bocca pensando che questa sia una sorta di proiezione nell'aldilà di cose che abbiamo nell'aldiqua. Io dico che chi pensa questo non si è studiato bene San Tommaso d'Aquino, perché San Tommaso d'Aquino, che era veramente un genio, persona intelligentissima, formula questi due principi. Attenzione, eh? La grazia, che è quella che viviamo qui, presuppone la natura e la porta a perfezione. La gloria presuppone la grazia e la natura e le porta a perfezione assoluta. Capite che significa, no? Come la grazia di Dio, non è che se io sto in grazia, cioè un santo, non è che se un santo è un santo, dice, ma il santo diventa un'altra persona. Si diventa un'altra persona sotto certi punti di vista, d'accordo? Nel senso che i difetti che aveva si diminuiscono, scompaiono per lasciare il posto alle virtù. Ma io non posso diventare un'altra persona. La mia voce è questa. La mia anima è quella che ho. I miei tratti somatici, almeno in questo mondo, sono questi. E questo non deve lasciarci stupito, perché la creazione, anche se noi stiamo, catechesi dell'anno scorso, in uno stato di natura decaduta, ma siamo sempre creature di Dio. Dio non è che si è sbagliato a creare gli esseri umani. Quindi non è, come dire, Anche se la dimensione del cielo è una dimensione trascendente, quindi che c'è uno scarto, che c'è un surplus, che tra l'altro nemmeno possiamo immaginare perfettamente, ma noi non possiamo però pensare che quello che c'è stato qui svanisca nel nulla. Adesso, a prescindere dalle considerazioni sull'eternità creata, che tante volte sono già state fatte e saranno fatte ulteriormente, non è pensabile questa cosa qui. Capite? Perché la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione, e la gloria porta a perfezione tutto il resto. Quindi, cosa c'è da stupirsi se da un bacio normale, poi ci torneremo su questo perché poi glielo spiega che cos'è, si passa al bacio compenetrativo? Cosa c'è di tanto strano se tutta quanto una serie di amori che non si possono vivere su questa terra, ma perché c'è il peccato originale, che ci mette in stato di interdizione, poi si possano vivere in cielo? L'amore non può essere una cosa non bella o non da vivere, a meno che non ti trovi nelle situazioni contingenti in cui stiamo adesso, che tantissime cose qui si possono fare. Non posso io gustarmi in una stessa giornata 10 qualità di liquori diversi e 10 tipi di vino diverso, perché al terzo sto già fuori di testa. Non lo posso fare. Ma nell'altro mondo lo posso fare come? Qui posso fare, posso anticipare un tantinello, ma proprio molto molto lontanamente. Si badi a questa considerazione, perché noi non dobbiamo farci anche delle idee bislacche, completamente sgangherate. Certo, non possiamo immaginare perfettamente com'è il paradiso, ma il motivo per cui Dio ha permesso questa cosa, e è stata riferita evidentemente a quest'anima, ma poi attraverso quest'anima giunge anche a tutti noi, no? È anche che noi ci facciamo un'idea verosimile, corretta. Fermo restando che alcune cose rimangono, per esempio della gloria essenziale, non gliene parlo. Mi ricordo che qualche giorno fa ho letto, non so se è una mail o un commento di YouTube, dice: ah, bene, bella la gloria occidentale, ma quando è che si parla della gloria essenziale? Ma non si può parlare della gloria essenziale, almeno non perfettamente, perché l'essenza divina, e che cosa significa contemplare faccia a faccia la Santissima Trinità? È cosa che non è per questa terra, non è proprio. Quindi qui certamente i mistici dicono che se uno va molto avanti, arriva agli ultimi stadi della santità e dell'unione mistica con Dio, compreso il matrimonio mistico, può arrivare ad avere, questo lo dice credo Santa Teresa, sì, Santa Teresa, non San Giovanni della Croce, la forma più alta, scusate, di esperienza mistica, che è la contemplazione, la visione intellettuale della Santissima Trinità. Io racconto che cos'è, mi ricordo di averla letta, certo, Santa Teresa descrive, balbetta qualcosa, ma evidentemente, come sempre dice e specifica quando parla delle esperienze mistiche, mi può capire perfettamente solo chi questa cosa ha vissuta, chiaro, no? Quindi, ballare è una cosa bella, non è una cosa brutta. Anche se uno è imbranato, che non ha imparato a ballare bene, attenzione, non i ballacci che fanno adesso, i balli satanici, cioè, i balli che si fanno in discoteca, perdonatemi, non è che sono balli quelli lì, cioè, sono movimenti scomposti, orridi, d'accordo? Il ballo bello, d'accordo? Il ballo classico, ecco. Quello bello, no? Che ne so, quando eravamo giovani, che ci stavano le feste a 13-14 anni, che ballavamo i lenti con le prime morose, posso dirle queste cose qui, speriamo non scandalizza nessuno, insomma, no? Oppure un bel valzer. Adesso non lo so che cosa ballano in cielo, insomma, adesso lo vediamo insieme. Ma questi balli sono belli, sono. E certo, anche qua uno deve stare un pochino attento, perché non è che può ballare con chiunque. Ecco, io adesso che sono prete non ballo con nessuno, perché non sarebbe opportuno, capito? Ecco, chi è sposato è bene che balli con la moglie o col marito, perché il ballo, capite, è anche una, un'attività che può, evidentemente per il contatto, specialmente quando si balla in due, attivare una serie di cose che, come ben sappiamo, in questa vita sono interdette, quindi non bisogna farle attivare, a meno che uno non ci abbia il marito o la moglie. Ecco, lì si possono attivare, altrove no. E ritorno allo stato di interdizione. Ma in paradiso questo non c'è, quindi a voglia fate balli con chi ti pare, cioè con chi ti pare, con chi la Divina Provvidenza ti ha messo in sintonia. Allora, sì che si balla, riprendo, ma molto meglio. I ritmi dei motivi ballabili di questo mondo, attenzione, qui parla anche del tempo, no? Devono per forza essere adeguati alla cadenza degli spazi-tempi normali della Terra segnati dall'orologio. Devono effettuarsi sul pavimento. Se balla sul pavimento, no? Non credo che se balla sul mare. Dovuto alla forza di gravità. E dispongono qui di assai poche cadenze, dice Tenera Amata. Per esempio, il volo armonioso di uno stormo di uccelli ti sta a segnalare nuove possibilità del ballo celeste. In cielo non c'è la forza di gravità, eh? Quando noi staremo in cielo, quando noi staremo fuori della quarta dimensione, non siamo più soggetti alla forza di gravità, pur avendo il corpo, per quanto riguarda ovviamente l'eternità creata, non per quanto riguarda il post-cadavere. Spero che ormai ci siamo familiarizzati con questo vocabolario, no? Nella patria la danza si fa dovunque. Non solo che ballano, ma ballano dovunque. Non occorre un pavimento pulito e incerato, non occorre la pista da ballo. Per il dominio assoluto che abbiamo sulle forze gravitazionali, dominio assoluto sulle forze gravitazionali. Non sono loro a dominare me, ma sono io a dominare loro. Ci abbiamo pensato, per esempio, che anche il nostro essere soggetti alla forza di gravità è un problema, eh? Perché? Punto primo, perché ti sta sempre per terra. Punto secondo, perché se ti sporgi dal settimo piano di un palazzo e caschi di sotto, che fai? Ti sfracelli. Non è che puoi dire, alt, mo faccio Superman e volo. No, non voli. Superman vola soltanto nei fumetti oppure nei film della Marvel, non vola se no, non esiste Superman, ok? Ecco, se non come creazione di fantasia. Allora, per il dominio assoluto che abbiamo sulle forze gravitazionali, possiamo ballare sulle cime delle cordigliere, senza pericolo di sporgersi e di cascarsene di sotto e spaccarsi la testa, ovviamente, no? O sulla superficie o nelle profondità dei mari, farsi un bel ballo sulla superficie del mare, o addirittura nelle profondità dei mari. Dici, ma come lì sotto non c'è l'ossigeno? Ma sai che gliene importa la persona che sta in quella dimensione che non c'è l'ossigeno? Come negli spazi siderali. Sentite che dice adesso, eh? È molto divertente ballare all'interno dei vulcani. Vi immaginate, no? Fa un po' calduccio dentro un vulcano, no? Ma non mi riferisco a quelli della Terra, poco attivi, ma a quelli delle stelle. Capito? Cioè, i beati che fanno? Dice, andiamo a fare un, non solo un valzer, adesso qui è offensivo perché dice che ci sono balli con cadenze molto più variegate rispetto ai nostri. Ci andiamo a fare un balletto dentro il vulcano della stella X. E attenzione, quelli là della Terra si piacciono poco perché sono poco attivi. Quindi uno può sorridere quanto vuole, ripeto, dinanzi a queste cose può tranquillamente chiudere il libro e dire queste sono tutte quante cretinate, io non ci credo. Per carità. Padronissimo di farlo, no? Questi non sono dogmi di fede, questi sono, come dire, luci che illuminano una verità di fede che comunque rimane. Cioè, in paradiso che ci sia una gloria accidentale, questo lo insegna la Chiesa. Come tutte quante le rivelazioni private, che cosa sta facendo? Dice, guarda che la gloria accidentale che io ti trasmetto e che ti dico che c'è è questa. Nel dettaglio, parte di quello che c'è è questo. Può pure non crederci, tanto che ci sia la gloria, che invece che ci sia la gloria accidentale, ci devi credere per forza, se vuoi essere cattolico. Poi, che non credi a queste cose, Chiudi il libro. Non è assolutamente obbligatorio sentire Don Leonardo che parla di queste cose, si possono fare tante altre cose nella vita e pace, insomma, no? Evidentemente, se io leggo questo testo e lo commento è perché è chiaro che lo ritengo più che verosimile e personalmente ci credo a queste cose qui. Più avanti potrai intuire l'ineffabile abbraccio delle coppie. Allora mo ne replica un'altra. Allora, prima cominciava a dire, però non c'avete il bar. Ah, noi abbiamo i liquori celesti. Ah, però non c'avete il ballo. Ah, ma non abbiamo i balli, abbiamo i balli spaziali dentro i vulcani delle stelle. Dice, adesso mo ne dice un'altra. Però non avete gli stabilimenti balneari, replicai trionfante. Dico, mo lo devo trovare una cosa che non ce l'hanno. Risposta. Non come questi di qua, rispose affabilmente, superficiali, sentite, con decorazioni artificiali oppure profondi e pericolosi. Gli stabilimenti termali del cielo, attenzione, altra informazione, hanno l'incanto della natura pura. Udite, gli appassionati di mare, ci sono gli stabilimenti termali del cielo. Hai sentito parlarne? Dice, ovviamente non ci occorre fare il bagno. Attenzione, non ci occorre, cioè non abbiamo bisogno. Le nostre anime glorificate eliminano la polvere e il sudore dei corpi. Capito? I cittadini del cielo non si lavano. Sta dicendo in parole molto prosaiche, no, un po' meno prosaiche di quello che sto dicendo io. E perché? Perché le operazioni di pulizia le fa l'anima glorificata, che elimina polvere e sudore dei corpi, quindi tutti i cattivi odori. Quindi dice, che ci andremo a fare dunque a farci il bagno? No, quindi non facciamo il bagno perché ne abbiamo bisogno, ma anche qui facciamo il bagno per diletto. In cielo non si mangia perché si ha fame, ma si mangia per diletto. Non si beve perché si ha sete, ma si beve per diletto. Non si fa il bagno perché siamo, altrimenti uno deve fare pace col sapone, che se no puzza, scusatemi, fino a quando rimaniamo in questo mondo, ma si fa il bagno per diletto. Tuttavia, nel nuoto godiamo lo sfiorare dei fluidi dell'universo. Acqua come questa di qua, ma anche altri liquidi e gas stupendi che non conosci. Ci sono altri liquidi oltre all'acqua. Qui per qualcuno che ogni tanto mi fa le domande, dice, ma se esisteranno altre forme di vita in tutto l'universo? Io ti rispondo con Padre Pio, insomma. Padre Pio, eh? Padre Pio, quando fece questa domanda, dice, risponde, e che te pensi che tutto quello che ha fatto il nostro Signore, che ci sta soltanto toccata, in tutto l'universo, insomma. Cioè, dobbiamo capire che a parte il sistema solare all'interno già della stessa Via Lattea, d'accordo? Ma immaginiamo il pianeta Terra nei confronti di tutto quanto l'universo, ma non lo so, è meno di una punta di spillo nei confronti di tutta la materia che c'è sul pianeta Terra. Cioè, voi immaginate una punta di spillo in relazione a tutto quello che c'è sul pianeta Terra? Ecco, meno è il pianeta Terra nei confronti di tutto l'universo. E quindi è possibile. Io se posso azzardare, queste sono proprio idee mie personalissime, farne eticazioni, sapete che penso ogni tanto? Io non solo penso che ci sia anche qualcun altro, ma penso che gli esseri umani sono la vergogna dell'universo. Io mi immagino altre forme di vita possibili che però non hanno fatto quello che abbiamo fatto noi, non hanno fatto il peccato originale, tutto quanto il disastro. Non hanno, come dire, non certamente costretto, ma spinto per amore il figlio di Dio a doversi fare uomo, a dover morire e soffrire. Credo che questa brutta figura, dal momento che l'unione ipostatica è irreversibile, quindi Credo che questa brutta figura, che bel palmarès che ci abbiamo, sicuramente l'abbiamo fatta soltanto noi. Oh, poi se mi sbaglio non ci sta nessun altro, queste sono cose proprio del tutto, veramente del tutto accidentali e accessorie, no? Tanto avremo modo di constatarlo quando andremo dall'altra parte, no? Queste sono cose che con certezza evidentemente non si possono sapere. A quanto pare, nonostante, cioè, per il progresso a cui siamo arrivati oggi, insomma, che è abbastanza notevole, abbiamo i telescopi spaziali, insomma, vanno abbastanza lontano, tutti quanti i missili, le astronavi, però contatti sembra che non si possano prendere. Oh, evidentemente non voglio parlare di queste cose, eh. Io quando sento parlare così a pelle di UFO, cose di questo genere, mi fanno sempre un po', come dire, mi sembrano un pochino di un po' cose strane, ecco, quindi, pur non escludendo affatto che ci siano delle forme di vita possibili, no? Però forse nostro Signore ha fatto in modo che non entriamo in contatto fino a quando rimaniamo in questa dimensione. Ma queste sono tutte chiacchiere comunque. Andiamo avanti a sentire tenere l'amata che è meglio. Acqua come questa di qua, altri liquidi e gas stupendi che non conosci, e perfino lava vulcanica. Il bagno dentro la lava. E uno subito pensa, ma lì te scotti. Dico. Non ti scotti. Non succede niente, non ti preoccupare. Ci dilettiamo con le carezze del moto ondoso, sentite, causato non già dalla marea, ma dalla naturale emozione del liquido nel percepire a modo suo la nostra vicinanza e nel presentire il gaudio che, d'accordo con la sua natura, gli procurerà il nostro contatto. Oh, qui comincia ad affrontare un argomento bellissimo, che sono i contatti tra le varie creature. Cioè, quello che sta dicendo è che se il mio corpo, quando arriva nella quinta dimensione, entra in contatto con uno di questi liquidi, io ne godo, ma ne gode pure il liquido. La naturale emozione del liquido nel percepire a modo suo, chiaro, non come persona intelligente, la nostra vicinanza è nel presentire il gaudio che, d'accordo con la sua natura, gli procurerà il nostro contatto. In questo modo funzionano nel cielo la conoscenza e questo si chiama l'amore universale. Tutti noi esseri ci troviamo relazionati tra di noi e ci conosciamo, ci amiamo e ci possediamo ineffabilmente nel cielo. L'amore universale. Teneramata notò che io ero prossimo a crepare di invidia e di nuovo sfiorò con le dita il dorso della mia mano. Mi disse affettuosamente: Massu, non essere invidioso. Molto presto, se davvero prendi sul serio il nostro Dio, godrai tutto questo. Attenzione, questo dice pure a noi, eh? Se davvero prendi sul serio il nostro Dio. Vedrai che significa essere un piccolo Dio per partecipazione del Creatore, qualcosa come un onnipotente in miniatura. È la nostra sorte. Ma, e attenzione a questo ma, che potenza, malgrado la piccolezza. Quale grandezza dentro la sostanziale nullità, noi. Quanto immenso è l'amore con cui ci ama il nostro Dio. Allora, amici, riflettere su queste cose, capite che questa, tante volte ho avuto modo di far notare e di evidenziare che il libro di Teneramata, che è stato tradotto da Don Pablo Martin, è in stretta correlazione con le rivelazioni fatte a Luisa Piccarreta sulla Divina Volontà. Ma quante volte negli scritti, cioè, io di meditazioni condivise ne abbiamo fatte tantissime, stiamo quasi alla fine del 31° volume, quindi abbiamo quasi finito. Ma quante volte lì si parla che la Divina Volontà ti rende felice anche in questa vita, il Signore c'è in serbo cose bellissime, meravigliose, anche in questo mondo. Quindi, cioè, che c'è una presa di coscienza, quindi una focalizzazione della vera e unica corretta idea di Dio che ci si può fare. che è il contrario, perché è stata ammessa oggi, oggi c'è il racconto del peccato originale, quello che il diavolo ha fatto bere ad Eva durante il peccato originale, come ho accennato nella breve omelia, che tra l'altro ancora non ho mandato online, mi sto ricordando adesso di oggi, è questo, cioè, dice, voi potete fare tutto tranne con una cosa? Beh, e Dio ti ha privato di fare della cosa più bella che tu potessi fare, bella roba, tu dici che ti vuole tanto bene, questi ci hanno creduto. E questo è un delitto proprio imperdonato. Come fai tu a credere che Dio, che ti vuole tanto bene, ti proibisce una cosa perché sarebbe la più bella di tutti? Questo è un delitto imperdonabile. Perché vuol dire che tu c'hai un'idea completamente sballata di quello che Dio è. Come se Dio si divertisse a precluderti la felicità, e non è, e non al contrario, che, ma scusate, ma perché ci ha creato Dio? Ho parlato in questi giorni, forse in qualche incontro con i giovani online. Dio ha creato l'universo semplicemente per amore, perché qualcuno fuori di lui potesse partecipare della pienezza di gioia, di vita e di felicità che lui è. E questo è il motivo per cui siamo stati creati. E tu quindi mi vai a raccontare che uno che mi ha creato per questo motivo poi mi impedisce, mi preclude un qualche cosa perché questa sarebbe la cosa più bella che esiste. E quando l'anno scorso abbiamo fatto questo ciclo di catechesi, che pare che il peccato originale sia stata l'apertura della vita sessuale all'interno del genere umano, ma quanta gente anche adesso pensa che la cosa più bella che esiste, il piacere più bello, irrinunciabile, è il sesso. La stragrande maggioranza degli esseri umani pensa questo, eh? E quindi, cioè, secondo questa vulgata, ah, vero, vero. Il Signore ti ha precluso la cosa più bella che esiste. Ma non è vero, manco, manco per niente. Abbiamo già visto che questa cosa, questa presunta cosa più bella che esiste in paradiso non c'è. Non c'è. Quindi chi è troppo attaccato a questa cosa sappia che in paradiso non c'è. Non c'è neanche all'inferno, dove vanno quelli che commettono i peccati impuri, per la verità. Quindi sta roba finirà con la fine della vita terrena, perché in paradiso non ci sta più e all'inferno nemmeno, perché all'inferno non ci sono godimenti, neanche quelli bassi di questa vita, quelli bassi e peccaminosi, non ci stanno. Ora, il lieve tocco di tenera amata mi vivificava e la sua celeste tenerezza mi faceva stare di eccellente umore. Se questi magnifici piaceri, pensavo, corrispondono appena alla gloria accidentale, che è la gloria di minore, che saranno gli indicibili gaudi della gloria essenziale. Bravo, Riccardo! Bravo! Questo è accidentale, quindi vuol dire che questo è un accessorio, questo è un contorno. E l'essenza che sarà, se questo è il contorno? Comprendo che tu senta la nostalgia della beatitudine, disse, è la tristezza nobile e solenne dell'esule che sospira alla patria, ma procura che sia un dispiacere costruttivo. Sentire queste cose deve provare, dice, non vedo l'ora di andare in paradiso. Sì, desiderio legittimo, ma vedi di mettere in condizione ad andarci in paradiso, se non ci vai in paradiso. Quindi che sia un dispiacere costruttivo che ti muova a porre i mezzi per raggiungere un fine così elevato. Ti rifarai poi nella gloria futura delle fatiche che hai sofferto per ottenerla. Ora, qui è chiaro che nella vita terrena non c'è il paese dei balocchi. Quindi anche se il nostro Signore ci felicita, ci riempie di bene e di grazie anche qui, qui c'è anche l'impegno di servirlo, c'è il travaglio. C'è l'impegno nelle buone opere, ci sono le fatiche, le tribolazioni, tutte le nostre offerte fatte al Signore, ma queste vanno a costituire le medaglie future, le gemme della corona che avremo come beati e anche il tasso di gloria che avremo in cielo, che è proporzionato, non dimentichiamolo mai, ai meriti. Tenera amata, già detto più di qualche volta che lei è una piccola beata. E pur non potendo i beati provare, come dire, sofferenza, però un pochino se ne rammarica. E infatti tutti quanti i santi hanno insegnato che quando muore un santo, non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello la voglia di tornare sul pianeta Terra a cui noi siamo tanto attaccati. Se non dicono i santi, tornerebbe sul pianeta Terra per fare qualche opera buona in più o qualche penitenza in più perché la sua gloria celeste sia superiore. Per quello ci tornerebbe. Solo per quello. Perché di là queste cose non si possono fare più. E quello che ha avuto, avuto e che ha dato, ha dato. Il grado che hai raggiunto è quello che ti tieni. Passiamo al capitolo 25, ci introduciamo anche nel capitolo 25, che è anche qui tanta, tanta roba. Allora, tenera amata, io continuavo in piedi davanti alla finestra della casa dove vissero le signorine Campos, quindi il famoso luogo del loro incontro, dove hanno viaggiato secondo il nostro modo di pensare con la macchina del tempo, quindi spostandosi indietro di diversi anni, no? Semplicemente utilizzando un paratempo, adesso non ripeto quello che ci siamo detti a suo tempo, tutto restava immobile in silenzio. Soltanto ascoltavo, o meglio percepivo, non so come, ciò che mi insegnava la mia amata maestra celeste. Riprende tenera amata a parlare. Vorrei spiegarti un po' il possesso delizioso dell'amore umano nella gloria occidentale. Possesso delizioso dell'amore umano nella gloria occidentale. Se non lo capisci, malgrado i miei sforzi, fa un atto di fede e non pretendere di scrutare quello che è molto al di sopra della tua intelligenza attuale. Per questo vorrei che mi permettessi di salutare la mia mamma. È la signora che indossa una cappa di fustagno grigia. Occupa la quarta sedia, prima del pianoforte, di fronte a noi. Guardai dalla finestra, era una signora giovane, cioè giovane per me, perché è vecchia, una donna quarantenne ci sembra una ragazza. La si vedeva di portamento distinto, ma non rassomigliava a tenera amata. A un tratto quella signora, che sembrava una statua di cera, riacquistò i movimenti, si accomodò prima e poi si alzò in piedi. Si diresse verso la finestra sorridendo alla mia bella compagna. Per un attimo pensai che la signora stava per urtare il tavolino del centro, ma nemmeno lo vide. Passò attraverso senza alterarlo. Per chi conosce un pochino il Vangelo, questa operazione la conosciamo già, l'abbiamo già sentita, no? Gesù Cristo che entra a porte chiuse nel Cenacolo, no? Chi c'è qualche problema a rappresentarsi i balli che si possono fare sulle acque del mare, beh, basta che si ricorda l'episodio di Gesù che cammina sulle acque e di Pietro che cammina sulle acque. Non sono leggende, come dice qualche esegete modernista e razionalista, diciamo che queste sono leggende, questi sono simboli. No, no, non sono leggende, non sono simboli, sono fatti reali, accaduti. Quindi passa attraverso il tavolino senza alterarlo. E tra l'altro poi tenera amata spiegherà anche, me lo ricordo bene, perché passa attraverso il tavolino senza alterarlo. Che, non è, che una volta che uno lo sa, non si stupisce neanche più di tanto, no? Presso la finestra erano sedute varie persone, ma alla signora non importò, filtrò fra di loro attraversandolo come suppongo farebbero i fantasmi. Trapassò anche l'inferiata senza muoverla. Tenera amata e sua madre si salutarono, dandosi la mano, restarono così, penso, l'equivalente a un minuto di quelli che conosco io. Poi si separarono. La signora riattraversò l'inferiata alle persone che, come stato, rimanevano sedute nella sala, si sedette al suo posto, si accomodò e tornò alla stessa posizione statuale che aveva prima. Ok? E adesso vediamo cosa è successo. Dopo mi spiegò Teneramata che quando i glorificati utilizzano un paratempo, sentite che roba, devono ritornare alla loro posizione iniziale con totale esattezza. Attenzione, per non perturbare gli eventi storici conservati nei loro rispettivi spazi e tempi della quinta dimensione. Aggiunse che ciò è molto semplice, già che l'anima beatificata possiede una memoria prodigiosa, ma se qualcosa dimenticassi, attenti che roba, Dio la supplirebbe immediatamente in vista della piccolezza umana. Avete capito quello che sta dicendo qui? Allora, perché fosse fatta questa cosa? Che cosa è successo? Che la madre di Teneramata, che sembrava una statua, perché? Perché loro stanno in un paratempo piccolissimo che scorre, adesso non dico, a milionesimi di picosecondo. D'accordo? Quindi, cioè, ti sembra immobile perché in un milionesimo di picosecondo tu stai fermo lì. Allora, che cosa ha fatto la madre di Teneramata, che evidentemente era morta? Sapeva che loro stavano vivendo in quel paratempo questa esperienza, è uscita, come dire, dalla quinta dimensione, o meglio dalla quarta dimensione, entrando, andando a prendere un paratempo per poter realizzare questo contatto con Teneramata, che adesso poi spiega che cos'è. Dopodiché è ritornata lì. E Teneramata spiega: quando un glorificato utilizza un paratempo per fare qualcosa, in relazione però a una certa circostanza di vita in cui si trovava, deve tornare esattamente nella posizione in cui stava. Perché? Perché altrimenti gli eventi storici sarebbero alterati. Vi ricordate quell'episodio quando Riccardo ha chiesto a se stesso, quindi possedendo, ripossedendo miracolosamente, perché ancora non era defunto, per un dono di Dio, il suo corpo nella quinta dimensione, gli chiede tu chi sei e gli effetti che questa cosa ha prodotto, i disturbi che questo piccolo evento, diciamo così, fuori delle righe, ha provocato nella realtà storica rispetto a quello che stavano vivendo di 50 anni prima. E dice: ma io mi sono dimenticato in che posizione stavo esattamente, che stavo facendo. Ci pensa Dio. Anche a questo pensa l'Altissimo. E fatta attenzione a quello che è successo, mi chiese Teneramata molto contenta. Sì, certo, tua madre attraversò gli ostacoli con un fascio di raggi X. Dice: no, ma non mi riferisco a questo. Ma come ci siamo date la mano nel salutarci? Mi dispiace, ma non ci ho badato. E sentite adesso che dice: non ci siamo salutate con la mano, come fanno i pellegrini mortali. Le nostre mani si compenetrarono e si fusero in una sola, senza però venire meno nella loro individualità. Si unificarono intimamente in mezzo a un godimento magnifico, pelle con pelle, sangue con sangue, muscolo con muscolo. Questa è la compenetrazione dei beati. Si interpenetrarono però, ovviamente, senza rompersi, senza farsi del male e senza confondersi. Attenzione. Si carezzarono con fruizione cellule con cellule, protoplasma con protoplasma. Attraverso le nostre mani, la mia mamma ed io abbiamo realizzato una compenetrazione di amore celeste. Ci comunichiamo gloriosamente e ci godiamo moltissimo. Noi che facciamo in questo mondo ci stringiamo la mano, no? Una bella stretta di mano è una cosa bella. E qui mi viene la tentazione di La secondo, di ripensare alle proibizioni delle strette di mano. Bah. Vabbè, per poter immaginare un poco cos'è il saluto nella gloria futura, ti conviene ricordare due qualità del corpo beatificato. Guardate, attenzione, che rimandiamo ai... riparlerò di questa cosa durante le catechesi sui novissimi, quando arriveremo alla risurrezione della carne. No, la sottigliezza o piena sottomissione del corpo umano allo spirito e l'impassibilità o assenza di dolore sono due proprietà, non le uniche, dei corpi glorificati, sempre secondo San Tommaso d'Aquino. La sottigliezza o piena sottomissione del corpo umano allo spirito, che è quella per mezzo della quale è possibile realizzare il passaggio attraverso i muri senza dolore. Allora, inoltre la materia è eccessivamente porosa, è fatta quasi di spazi vuoti, entrerebbe in un ditale. Queste proprietà permettono che nel saluto celeste le mani si interpenetrino e si fondano come se si trattasse di una sola mano, ma senza farsi male, né disordinarsi, perché ogni essere nell'essenza è indipendente dagli altri. Affascinante, dice Riccardo. Dunque, è questa la compenetrazione celeste che la mia bella morte mi viene annunciata. Incominciai a comprendere quello del bacio compenetrativo, che è più bello di un bacio normale, molto più bello. Ma mi è sembrato che voi non avete parlato, però. Sebbene, ma non so che sto dicendo, come tu dici nei paratempi lenti, la voce non si trasmette e non c'è bisogno di parole. Tu dici che basta la dilettevole intercomunicazione del bacio tra due anime. E sentite adesso che cosa dice, e ricordatevi quello che vi ho detto prima, a proposito della grazia che presuppone la natura e della gloria che presuppone la grazia, e che c'è un processo di progressiva perfezione in cui ciò che precede non è distrutto, ma è elevato. Gli dice Tenera Amata, osserva che sulla terra il saluto di mano, il solo tocco e la stretta di mano è una manifestazione terrena dell'istinto della gloria futura, perché è una nostalgia del piacevole saluto celeste, che la nostra anima, presumibilmente, in base a quello che dice adesso Tenera Amata, lo conosce, cioè sa che esiste e attende di viverlo. Qui non si può. Ma questa stretta di mano, pensa un po', è una manifestazione terrena dell'istinto della gloria futura. E quindi togliere la stretta di mano che significa? Eh? Non significa far vivere una sorta di esperienza e di anticipazione di quello che è l'inferno, dove non c'è l'amore, neanche in quella forma bella e semplice, ma assai significativa, di una stretta di mano. E attenzione, ecco, adesso Tenera Amata risponde a quello che io stavo supponendo. Dice, ma se questo saluto del cielo non si conosce nel mondo, puntini puntini, cioè come fa la stretta di mano ad essere una manifestazione terrena dell'istinto della gloria futura? E dice, risponde Tenera Amata, la coscienza lo ignora, ma l'anima spirituale, che non è la stessa cosa della nostra coscienza, nessuno di noi segue le cretinate che sono state dette da Cartesio in poi, e che, vabbè, chi non c'ha una cultura non sa manco di che cosa si parla, ma il problema è che sapete che anche le persone illetterate e non colte, però oggi stanno vivendo quello che hanno teorizzato Cartesio, Fichte, prima di Fichte Kant e Hegel. Tutti lo stanno vivendo adesso, anche se non sanno neanche di che cosa lontanamente si tratti. Perché la filosofia, questo per chi va a fare i disprezzi facili, no? Ci sono i cretinetti che per dileggiare la filosofia dicevano: la filosofia è quella scienza con la quale o senza la quale tutto quanto resta uguale. E insomma, così come tutte quante le cose che vediamo adesso in giro nella Chiesa, tutti quanti i modernismi di ogni genere, basta aver studiato un pochino di teologia, sono tutti quanti esiti, cioè una liturgia scellerata. Guardate che è l'esito ultimo di elucubrazioni mentali ad altissimi livelli. Quando uno ha la capacità intellettiva e anche, come dire, la dotazione culturale per poter comprendere, quindi decodificare tutti quanti i passaggi, quindi a partire dall'elevatezza del pensiero fino alla manifestazione grossolana, meglio. Ma tanto se non ce l'è la stessa cosa, eh. Lo vivi senza saperlo. Quindi la coscienza lo ignora. Pensate, ma perché secondo voi si può fare un aborto? Perché alcuni esseri umani, chiamiamoli così, possono dire che un feto è un grumo di cellule? Perché? Perché un feto non ha coscienza. Voi capite che cosa significa? Cogito ergo sum. Penso quindi sono. Quindi, ma per pensare devo essere cosciente. Se quello non c'ha la coscienza e quindi non pensa, non è. E quindi lo posso ammazzare. Ho fatto una piccola applicazione pratica, eh? Ma guardate che è così. E il discorso sull'eutanasia, se dove hanno fatto l'eutanasia e se la faranno anche qui, si fonda sulla stessa identica. Sullo stesso identico errore filosofico, un malato terminale vive come un automa, non è cosciente. Se in qualche raro momento c'è qualche sprazzo di coscienza, ce l'ha soltanto per soffrire in maniera indegna, quindi si ringa e lo mandiamo all'altro mondo. Tanto che ci sta a fare. Poi, se ti vai a leggere il libro di Gloria Polo, però, lo faremo l'anno prossimo in un ciclo di catechesi che nella mia intenzione è il successore di Tenera Amata, vai a vedere cosa ti racconta quella che stava in coma irreversibile e che evidentemente stava incosciente, che però vedeva e sentiva tutto quello che dicevano, specialmente quelli che volevano staccare la spina. Che significa? Significa che l'anima di quella persona stava vivendo, anche se la coscienza era ridotta a zero. La coscienza lo ignora, riprendo la lettura, ma l'anima spirituale, essendo radicata nell'eternità creata ed essendo la forma sostanziale unificatrice di tutto l'essere umano, sia nello stato di viatore che in quello di comprensore, la intravede da lontano e la sospira. Cioè, la mia anima non c'è mai stata nello stato di comprensore. Perché io sono un viatore, ma è spirituale. E quindi, siccome unificherà tutto il mio organismo integrale, tutto, sia in questa vita che nell'altra, la intravede da lontano e la desidera, la sospira, e quindi in qualche modo cerca di anticiparla. La stretta di mano. Stretta di mano si può quasi sempre fa. Ecco. Ma se questo saluto del cielo continua, no, scusate, in alcune epoche e regioni, dice Riccardo, le genti non hanno avuto la consuetudine di salutarsi con la mano. Risponderei. Tuttavia, il saluto terreno ha sempre preferito un leggero tocco, una leggera carezza, che vale come un'anticipazione del meraviglioso saluto dell'aldilà. È bello il saluto di stretta di mano, dice Riccardo, ma nel praticarlo con i miei simili non ho coscienza del futuro saluto celeste. Risposta. Si tratta di un istinto per il cielo. Gli istinti non sorgono nella coscienza. Tensione per volontà dell'uomo. Il nostro Dio li ha messi in ognuno di noi per spingerci a realizzare ciò che lui ha predisposto, attenzione, in conformità col nome nuovo e la dote di manna segreta, che abbiamo già visti cosa sono, che ciascuno godrà nella patria. Non sempre gli istinti si soddisfano durante la vita mortale. Alcuni, come questo, sono inspiegabili nel mondo. E perché sono inspiegabili, obietta Riccardo? Perché non sono da praticarsi sulla terra, ma dopo nel cielo. Però li cominciamo a percepire dalla terra. Non ci sono punti di riferimento per comprenderli né goderli. Se tu facessi una compenetrazione della mano adesso, come il saluto con la mia mamma, ma moriresti di dolore. Noi adesso non la possiamo fare questa cosa qui, perché vi immaginate, sentiremo un dolore terribile. La tua pelle non ammetterebbe la penetrazione di un corpo estraneo. Soltanto nello stato di gloria è possibile godere di questo e di molti altri istinti che appena si intravedono in questo mondo. Di nuovo sentì il fastidio per la mia triste situazione di viatore limitato ed impotente e dissi: alcuni animali domestici ci salutano con carezze a modo loro, e qui ecco che si parla dei miei amici, come il gatto che ti fa le fusa, possiedono anche loro l'istinto della gloria futura? Certo che sì, rispose con uno sguardo compassionevole. La sola differenza è che loro non sono capaci di aspirare alla gloria proprio degli umani, perché non hanno l'anima spirituale. Attenzione però, la loro gloria la ricevono dalle persone beate, come ti ho spiegato. I miei gattini riceveranno. Qual è la vita di un animale? Facciamo un ripasso. L'animale vive i gatti tra i 15 e i 20 anni massimo. Questi 15-20 anni termineranno nel tempo con la loro morte corporale, ma questa sarà la loro vita perpetua, i 15-20 anni. E dentro questi 15-20 anni ci sto io con loro. E attenzione, quando io sarò morto, cadavere, e ritornerò qui adesso, vicino a loro, adesso fanno un sacco di fuse, quando gli faccio le carezze sono tutti quanti contenti, ma quando gli rifarò quelle stesse carezze nel mio nuovo stato, per loro sarà bingo, strike, perché il godimento che gli daranno sarà enormemente superiore a quello che ricevono adesso. Dice, tuttavia, la loro anima immateriale, ma non spirituale, consente loro di conoscere oscuramente, sentite che dice, che le carezze superficiali, quelle che gli diamo adesso, sono preludio di piaceri migliori che riceveranno dall'uomo glorificato. Vi rendete conto cosa sta dicendo? Che l'anima immateriale, avete visto quando gli animali fanno certe cose, che dice, ma come fa questa a percepire questa cosa qui? Ce l'ha un'anima, non come la nostra. Non c'è la ragione, non c'è l'intelligenza, ma è un'anima. Non capace di Dio, ma è un'anima. E quindi si dispongono con la generosità autentica della loro natura inferiore, ma beati loro, impeccabile, non possono fare i peccati loro, beati a loro, a offrire ai loro glorificatori la partecipazione ai doni specifici, soprattutto ai doni singolari che hanno ricevuto gratuitamente dal Creatore, cioè i miei gattini, e poi mettiamo punto, come dice Luisa, non soltanto riceveranno un giorno da me dei godimenti che adesso se li possono soltanto che sognare, ma li intravedono, ma io stesso riceverò da loro cose che qui non posso ricevere. Qui ti possono far commuovere, che ti vengono vicino, che ne so, che ti si mettono addosso, che tu stai a dormire e ti vengono a dormire vicino, che ti leccano le mani, che ti fanno capire che ti vogliono bene. Ma questo è niente qua in confronto a quello che poi saranno in condizioni di saperci e di poterci trasmettere. Bene, amici, alla prossima. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga. Carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicate a tenere